qua. Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic check check 1 2. Sound check, il suono della musica di Gigi Telesforo. Ci siamo pronti qui dal Groove Master Studio. Buona domenica a tutti voi in contatto con Radio 24. Buona domenica a Francesco Tromba e Silvia Barba. Buona domenica a tutti e a te. Dunque, gli accordi che avevamo, Francesco, erano sul sabato. Venite di sabato qui nel Groove Master Studio, suoniamo musica spinta, insomma, dal funk all'R&B, le novità e altro. Adesso però invece vi state appassionando alle puntate della domenica. Eh sì, perché la verità è che veniamo qui il sabato e poi non ce ne vogliamo più andare, perché ci sono un sacco di dischi, un sacco di musica da ascoltare, da scoprire. Possiamo anche raccontare agli amici che voi avete la vostra cameretta qui, no? Ormai sì. Adesso il Tromba si è portato anche le fotografie dei parenti, le ha attaccate al muro vicino a Chet Baker. Ha tolto quelle della mia famiglia e ha messo le sue. È vero, è vero. Vabbè, c'hai l'ingresso indipendente, Tromba, ti organizzi come vuoi. Adesso non so tu che cosa fai poi di notte. No, non è dato sapere, non diciamo niente. Bene, siamo pronti per un'altra domenica qui a Radio 24. Questa sera protagonista il suono dell'organo Hammond. Meraviglia, che strumento eccezionale. Strumento eccezionale, particolarissimo, di cui si giovano comunità di hammondisti. Sai che si riuniscono, si prestano, c'è una rete fittissima di hammondisti che si aiutano nel momento in cui viene un altro hammondista a suonare in città, si prestano lo strumento, visto che la difficoltà nel trasporto, ma sono davvero dei cultori assoluti del... È vero, anche quella fra i musicisti, quella degli hammondisti è proprio una categoria a sé, una lobby, hanno un loro modo di pensare, di ragionare e anche di nutrirsi. È una religione. Avrete notato che la maggior parte degli organisti sono di dimensioni abominevoli. Sono musicisti, cioè, di peso. Se non pesi oltre i 90-100 kg, non sei un organista considerato dalla lobby più di Vuol tanto. Vuol dire che non sei bravo. Stiamo esagerando, però alla fine è così, perché uno strumento già per essere trasportato è difficile. Tant'è vero, quando si fanno i concerti e c'è un hammondista di mezzo, bisogna organizzarsi bene. Adesso ci sono vere e proprie organizzazioni che mettono a disposizione organi in ottime condizioni, quel modello particolare e via dicendo. E poi c'è un grande ritorno all'organo Hammond negli Stati Uniti, perché c'è un grande ritorno al gospel. Quello è uno strumento fondamentale per quel genere, no? Fondamentale, fondamentale. Dunque, gli hammondisti di solito prendono paga doppia. Perché, Tromba? Perché mangiano il doppio. No, non solo per quello. Dai, e non sto scherzando, prendono paga doppia perché suonano per due, no? Sì, sì. Di solito quando c'è un hammondista di mezzo non c'è un contrabbassista o un bassista. Esatto. Il suono dei due strumenti insieme non è tanto carino. Di solito la formazione con l'Hammond prevede batteria, Hammond, chitarra e un solista. Quindi la chitarra, perché quando poi Hammond accompagna o fa gli assoli, c'è la chitarra che supporta armonicamente. Fatto sta che fra gli specialisti della nuova generazione, un musicista che ha avuto anche l'onore di suonare con il grande maestro dell'organo contemporaneo, che è The Incredible Jimmy Smith, purtroppo scomparso, ma che io ho conosciuto e col quale ho condiviso dei bei momenti quando si faceva doc in televisione, e il protagonista, l'erede diretto di Jimmy Smith, e Joey DeFrancesco, un musicista eccezionale, anche un bravissimo trombettista e un formidabile cantante. Nuovo album per lui, veramente bello, Joey DeFrancesco plus The People Project Freedom, questo è il titolo dell'album, con Jason Brown alla batteria, Troy Roberts al tenore e al soprano, Dan Wilson alla chitarra. Il brano è The Unifier. Joey DeFrancesco, Project Freedom, al soundcheck. Il suono di Project Freedom, questo è il titolo del nuovo album del talento incredibile, quello di Joy De Francesco con il suo organo Hammond, anche se poi quando va in giro si porta un organo elettronico, perché la difficoltà per gli hammondisti è proprio quella di trovare sui palcoscenici uno strumento originale in buone condizioni. Ecco, questo è il problema. Tu ne conosci gli hammondisti? Ne conosco, sì sì, ci ho anche suonato a volte. Hai notato quanto si disperano quando si trovano sotto uno strumento non in buone condizioni? Beh, immagino che abbiano bisogno di una manutenzione particolare, per cui poi quando arrivi e non è il suono che ti aspetti, ci sono dei problemi, per cui hanno ragione ad essere esigenti con i loro strumenti. Sì, fortunatamente adesso da diversi anni costruiscono degli organi elettronici che emulano perfettamente il suono dell'organo, anche se poi non c'è proprio quel rapporto fisico che si ha con l'organo Hammond, proprio con i Drew Bars, ma insomma, con la pedaliera, poi devi portare il Leslie. Immaginate un musicista che si porta dietro il suo organo Hammond, deve viaggiare con un furgone. Esatto, con una station wagon bella capiente. Un traslocatore, può fare il doppio lavoro. Sì, e poi ha bisogno anche di 2 o 3 persone che l'aiutino a smontare e montare tutto ogni volta. Guarda, non credere, se l'organo Hammond è il tuo, non vuoi farlo toccare a nessuno. Diventi fanatico. È così, guarda, io li conosco bene. Joy De Francesco con Karma. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Che bravi, un suono italiano ma internazionale e naturalmente jazz per il trio di Alessio Menconi che celebra Duke Ellington e Billy Strayhorn, e quindi Alessio Menconi trio plays Duke Ellington and Strayhorn con il suono dell'organo Hammond di Alberto Gurrisi, uno dei migliori specialisti della nuova generazione in Italia, e Alessandro Minetto alla batteria. E Alberto Gurrisi è già stato ospite del nostro soundcheck e lo abbiamo anche intervistato a variazioni su tema in occasione di una puntata durante la quale indagavamo proprio sul rapporto strettissimo che i musicisti hanno con il loro strumento, e Alberto mi raccontò che quando studia il suo organo Hammond non vuole essere disturbato da nessuno, soltanto dalla fidanzata se gli porta un bel piattone di carbonara o se si presenta in déshabillé, ecco. Allora, solo in quel caso può lasciare levare le mani dall'organo, le mani e i piedi, no? Perché là è l'organo, si suona con tutte e 4 gli arti ed è per questo che è uno strumento abbastanza complicato. E è uno strumento che poi a un certo punto, a partire dalla metà degli anni 60, viene spostato dalla chiesa ai palcoscenici dei jazz club, a palcoscenici più grandi che sono poi quelli tipici del rock. Sì, perché tra gli anni 60 e gli anni 70 è diventato protagonista di tantissimi gruppi come gli Emerson, Lake & Palmer, i Deep Purple, i Doors, che hanno utilizzato il suono dell'organo. Mamma mia, Brian Auger, sì, che organista! Tantissimi, è stato anche maltrattato da alcuni di questi gruppi. È vero. Ad esempio ricorderete sicuramente Keith Emerson che usa dei coltelli per tenere fermi determinati tasti, per bloccarli, per avere fermare la nota, sì. Sì, o comunque venivano cambiati e modificati tutti i tasti, maltrattati proprio. Comunque non tutti sono fan dell'organo Hammond e non tutti lo trattano con i guanti. Fra i musicisti, sì. ma anche fra gli appassionati di musica, anche se poi l'organo Hammond ha questo di bello, che può essere uno strumento dolcissimo, delicatissimo, ti può emozionare proprio come un velluto, come una seta rara, oppure diventare dirompente, così come quando viene utilizzato sui palcoscenici, più rock and roll, la sai la cosa, no? Per i musicisti di jazz americani old school esistono solo due generi di musica: il jazz e tutto quello che non è jazz e rock and roll. Anche la musica classica, vabbè, la musica classica è un'altra cosa, però esiste il jazz e il rock and roll. Se non è jazz, è rock and roll. Va bene, invece questo è jazz purissimo, quello di Alessio Menconi Trio con Alberto Gurrisi, Alessandro Minetto. Le composizioni per questo album, per la A-Beat, sono tutte quelle scritte da Duke Ellington e Billy Strayhorn, e infatti il brano si intitola Isfahan. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Chacha Jay, il suono tropical di Incredible Jimmy Smith, che ha suonato di tutto nella vita, e noi ritroviamo tirato fuori da questa compilation Complete Studio Recordings Jimmy Smith Lew Donaldson, doppio CD appena pubblicato, che ripropone il suono di due vinili d'annata. Io l'ho incontrato, l'ho conosciuto, sono stato con lui 2 o 3 giorni, mi sono divertito tantissimo, abbiamo parlato pochissimo, non era uno di molte... Ma suonava di più. Suonava di più e mangiava un sacco, come tutti gli organisti. È un classico. Sì, sì, chiedeva sempre a che ora si mangiava, quando si poteva andare a mangiare, che cosa c'era da bere. Beh, eravate in Italia, quindi. Eravamo a Doc, nello studio 1 di Via Teolada, quando si realizzava Doc Musica e Altro, a denominazione di origine controllata. E fra i grandi artisti, un giorno si presentò anche The Incredible Jimmy Smith. Mamma mia, che ricordi, che emozione. Mi sono ritrovato questo colosso di fronte. Vabbè, ma lì succedeva tutti i giorni, immagino, infatti abbiamo un po' di nostalgia, ci nomini sempre quel periodo e noi lo ricordiamo con te. Ecco, allora, appena finiamo la puntata e sta per finire, io vi faccio vedere la mia collezione di CD di The Incredible Jimmy Smith. Non credo di averli tutti, perché ne ha registrati, non so, centinaia, però quelli fondamentali ce li ho. E ci sono delle cose, delle perle proprio. Te ne rubo un paio. No, non rubi proprio niente, tromba. Tu lo distrai. Tu devi ascoltare, memorizzare e come una spugna portare a casa. Poi ti segni il titolo e te lo vai a comprare. Ecco, queste stanno così le cose. Allora, vi ricordate Matilda? Sì. Yes. Matilda. Bene, lo ascoltiamo? Dai. E chiudiamo. Dai. Ti voglio vedere ballare. Sono Silvia. Pronta, mi alzo. Vi salutiamo con The Incredible Jimmy Smith. Ci risentiamo sabato prossimo, 19:15, su questi schermi al Soundcheck di Radio 24. E fra un po' si parte in tournée con Sounds for Children e sono molto felice e emozionato. Grazie, The Incredible Gigi Telesforo. Grazie. Soundcheck, il suono della musica.